sinistra, la sinistra si raffredda. Va bene, rilasciamo il cino che resta mai, che avanti. Ehi, Nelson sempre qua, dai. Partito, se mi copi, dammi il roger. Tappa che ti copio. Dove sei? Tu punti H adesso? O dove sei? Sono sempre in zona via Torino, parte alta, dai. Ho già ti copio bene, dai. Già stai andando bene alla grande, dai. Va benissimo. Gappa. Va bene. Gappa, riprendi. Venite, mi hanno chiamato mia moglie. Sono qua. Dammi due secondi, diciamo, radio, due secondi. Positivo. Già va bene, già va bene. Le corde vocali sono quelle, no. Non ho di più, non ho di più. Mi sa che è meglio la tua vita della caramella. Tanti anni, signor microfono. invece tutti i buffi a culo di scimmia, per non dire la cazzo di cane. E quindi siamo là, ci è riusciti a mettere un po' a posto. Ma è giusto parlare con il microfono in più e a tornare alle radio, poi ho dato anche uno io, che è un microfono praticamente più amplificato per la battaglia, giusto per farlo andare. E va bene così, dai, piano piano, tu già. Ci ho dato qui a montare la radio come si deve, non c'è problema. Adesso, appena pronta la scrivania mia, vedo questa che ci vuole più grande, così ci mette tutto in ordine. E non state accampando in un altro gomulino, Veranto. È positivo, si non ferma. Piano piano, passano per altro, si sistemano le cose, dai, cappa di noce. Buona cena, buon tutto, Claudia. E a frappè, dai. K, a dopo, va bene, ciao. Ciao, miau. Miau, ciao. Tasto verde, tasto rosso, tasto rosso, tasto verde. Tanto ormai io che trovo questo microfono, trovo una sopporta quel pulsantino. Ok, miau, miau, a dopo. Miau, miau, uu, a dopo. Con l'altro ecco, lo facciamo riposare. Cosa dici, Claudio? Va bene, io ti ascolto lo stesso, ma che non ti ascolto. Perché potresti uscire molto, molto più forte. Come poco fa, quando stavi parlando con Domenico, hai fatto un paio di passaggi molto bene. Però non ti capisco che ci fai, ma se le tue condizioni di lavoro sono quelle che ti devi sbagliare, ti conviene usare l'altro. E quello lì lo usi quando sei seduto, rilassato, capito? Ehi, ehi, ehi. Va bene, va bene, va bene. Allora faccio così, scomodo con l'altro, dai, vai. Cosa dici, Claudio? Più forte è scelto, Monico, lo dico. Esci più forte. Io sono abituato a parlare in faccia, lo sai. Ottima radio, ottimo tutto. Però per come lo usi tu, io preferisco l'altro, capito? Allora, scomodo con l'altro. Sempre lo stesso, non c'è problema, è sempre un giudizio che si danno, visto che stiamo facendo prove. Io ti sento molto, molto meglio quando sei seduto davanti al microfono. Se invece ti dai, la modulazione rimane molto dispersa, quindi è preferibile usare il microfono dove ti puoi rilassare bene, capito? Tanto te lo dici male da voi e ti sentono effetto cattedrale. Adesso fumo troppo, due secondi da me, Claudio. Ieri, sono qua. Ma ci vedete già per l'oggetto? Attento, per l'oggetto il muro. A Luca, io ho i due. Luca. Eccomi qua. Che si è gettato a Luca? Tra. E io. Bisogna provare il tono più 3 con 87 a vedere. Bisogna provare il tono. anni più 3 con 87, le mie più 4 passano al mobile con valore. Io ma ci sono rimessa la canzone. Vero? Beh, questo non si può passare, vero, questo, perché c'ha le connessioni diverse. Non lo so, se le mie più 4 con quella adattatore sul mobile con funziona, tu l'hai mai provato? No, la verità non l'ho mai provata. Se c'è una ricezione non fischia puoi provarlo, ci vuole un attimo, lo stacchi l'87 e lo attacchi al connettore, stacchi con la M500 e attacchi con lì, te ne accorgi se funziona, se non funziona lo rimetti da ora, vuol dire che c'è a cambiare qualche filo. Adesso lo provo, no, sono curioso. Possono dare 15, il massimo 15 watt. a questo che sto operando adesso? Sì, l'87, è montato fino alla regione un po' più grande. Però poi anche Luigi, lui l'ha portato a 30, è meglio non forzarlo. Comunque si può portare da 10 a 25 watt. Però io di solito li tengo intorno ai 15-18, capito? E quello, portandolo a 15 watt, recuperi anche un po' di segnale. Oh, se recupera il segnale. Vabbè, devo dire, sono 5 watt in più, sono tanti. 5 watt in più recuperi secondo me almeno un punto esce in più, 1,5, quasi 2. Ma me ne accorgo subito, me ne accorgo subito. Quello si mette sotto watt, metterò, lo porti qua, si mette sotto watt, metterò. Ma dove c'è il trimerino del power si aumenta un pochettino. Leggero, capito? Quello sono bande laterali anche, no? Eia, questo sì. E poi devo chiedere, ma il mobile che non c'ha le bande laterali? No, quello c'ha MFM. E basta. No, quello ha signorato l'87. Sì. E non bisogna portarlo più di 20 watt, perché poi quando vai in banda laterale spinge troppo e rischi di bruciare il finale. Una cosa intermedia, no? Una cosa intermedia. Non c'è che farlo andare a 10 watt, lo fa andare a 15, 16, 18. Va molto meglio. Beh, non si può fare una provetta nelle bande laterali, Claudio? Non si può fare. La facciamo? Facciamola. Qua su 10 in USB metti, USB. Yeah. Non sai dove mettere carnevale. No, è così a rovinare e basta, no, non se ne fa nulla, non se ne fa nulla. KK. E ma così, è così. Ma certo. No, io però gli ho detto, ma penso, non mi sono mai vantato di essere un tecnico. Quelle poche cose che mi sa fare. Io lavoro molto meglio sugli HF perché le conosco molto di più che sui baracchini. Io baracchini me non è troppo migliore, però se c'è da mettere un trimerino, da fare una tonzattina, già sappiamo dove mettere le mani, non è che un problema. Però è meglio sempre avere gli strumenti adatti per fare manovre strane. È ovvio che per ogni cosa ci vogliono le sue strumenti, le sue cose, capito? Se ci viene una paletta, c'è cioè una brava e una cementata lì in passo. Io ho il trimmer, il contro trimmer e poco il dosa dentro, lui non va bene. No, no, poi non mi ha dato neanche la toccarmi. Non si può rimanere così, ma tra casa è giusto ognuno il suo. Ognuno il suo? Ognuno il suo veramente. No, no, no. Non andrà bene, non andrà bene. Si lascia il mondo per com'è, come? Ecco, perché poi rischi di fare danno. Cioè, il baracchino ci mette molto poco a uscire fuori di sintonia. Perdere le sue cose non va bene, bisogna che ci siano gli strumenti adatti per fare determinate cose, se no è un casino essere lì. Sì, è vero, e si conferma, è un casino, già lo vedo, già lo credo. Vabbè. Noi devo stemare quello che mi dica Luigi di comprarmi un maschio e femmina di quel connettore a 4, perché voglio eliminare quell'attacco del CS di quella spinetta così e mettere quello a 4, sia il maschio che la femmina, capito? Sia il maschio che la femmina, perché? Che va ben meglio, va molto meglio di quello lì, per cui quando tiri si stacca tutto sempre. Perché tu c'hai l'attacco a 5 così? E quello di aggregato. E c'ho dei vecchi baracchini così, di quelli americani, di quelli antianotti, no? Non visci, tipo quello che hai visto adesso per l'amplificatore, visto? Quanto grande quello lì. Voglio un SEAS SSB 50, quello non ha FM, perché le varie americane non hanno FM, c'hanno l'AM e le bande laterali, ma c'è una ricezione, è una trasmissione con la radio che fa paura. È proprio quelli sedotti senza abitare, non come quello di Sudio che si abitano. No, magari lui si è fatto lui sì, non avrà problemi, e lì si non si abita, quindi come vai a attivare? Devi usarlo solo con il microfono a tavola e basta, perché rimane fermo. Se ci metti il microfono a mano, non va a tirare, già tutti mi si è caccato. Allora mi ha divulgato il microfono, si avvia il cuffio e lo tengo in ricezione, così mi sto per sentire qualcosa, capito? Ho capito, come l'Intec S50, là, quelle che erano uscite le baracchine e si entrava lo spinotto senza la vettatura. Allora, 5 punte però senza che si mettano solo senza avere la penetratura. No, questo è un bene, il mobile, perché c'è la penetratura, perché se avesse avuto lo stesso sistema di quello sarebbe stato un casino. Blocca e tutto, e io ce l'avevo, infatti È per quello che te lo stavo dicendo, sono quegli spinotti che entri non hanno la tritatura, sono a 5 punte, però è solo innestare così e basta. E secondo il movimento che fai ti si stacca lo spinotto e è un casino. Infatti non mi piacciono quegli spinotti, non vanno bene, ci vogliono quelli a che entri la ghiera e stringi, capito? Infatti se sono così vanno più che bene, poi se si può, se dove si può fare, io gliel'avrei fatto, ho capito, gliel'avrei fatto e rimane più tranquillo al microfono, perché nella vita e non stai lì con la paura che si stacchi, non la stai modulando accompagnamento. Ma infatti è così, già ce lo faccio, sì, tanto ce l'ho aprito, dove il coperchio di sotto, staccare i fili, i segnali e metterci quello a 4, prima femmina e poi fare, metterci quello nel microfono. E infatti, già è una cosa fattibile, diciamo, dai, è una cosa fattibile, già si può fare. Ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza e provarlo. Non c'è una problema. Io lascerò sempre un attimino il bianco se deve entrare qualcuno. Vabbè, se deve entrare qualcuno, se vuole entrare già entra. Kappa kappa. Sì, infatti quello risolve il problema, secondo me, mettendo uno spinotto. Risolvi un grosso problema, non un piccolo, un grosso problema. Alla grande, non problem. Adesso vediamo, quando lo compra Luigi per lui, glielo faccio comprare anche a me, e poi quando scendo lo facciamo. Ehi, no, come ne fate? Dai, buono. Esci, conferma. Va bene. Fatto le cose, volevo sentire a Giulio a che punto è, se ha finito con quei lavori, se me la inizia questa base. E adesso magari tarda quando non passano. Oh, Giulio l'ha già cucato. Con il canto magari sta ascoltando. No, ci devo passare. Devo passare in falegnameria, portare le misure. Non ho detto, mi telefono con lui appena era pronto, deve sta terminando un grosso lavoro. Appena pronto, poi mi avvisarlo, così metterlo in lavorazione. Grazie a base. Sì, è per certo che con l'altra base esce una schioppettata, veramente bello. Poi la stazione, diciamo che rimane più ordinata, più spazio, più tutto, e è tutta la finestra, e dai. Sì, anche perché devo mettere l'altro monitor del computer, spostare il televisore, quindi voglio più spazio, abbiamo liberato lo spazio. E quando lascio la radio va bene così, su questa parete. Sull'altra parete la devo fare uguale a questa, la voglio una base così, da 3 metri. Larga 90 come questa, con tutti i comfort e tutte le cose, se no non va bene. Metterci a lavorare così come abbiamo fatto l'altra volta, lì tocca spostare microfono, ma male perché non c'è spazio. Invece ti metti dall'altra parte, c'è la presa, c'è tutto, lì metto l'alimentatore pronto per fare i lavori. Se ti apri l'alimentazione da qua, niente, capito? Oppure porto un carro lungo direttamente là, rosso e nero, canalizzato sempre, con le spinette, quello deve essere un banco per fare tutte le prove che mi piace fare, capito? Ci metto la faia di gomma, no, devo finire ancora, tu, devo ancora finire, sembra finito ma non è finito. Infatti, beh, tanto non avete lavorazione, poi già esce una cosa molto molto carina, molto bella. Una volta che ho fatto, l'ho progettato tutto io, con Giulio. Io addirittura volevo il quattro piedi, invece mi metto, ma perché quattro piedi, scusi? Le mettiamo due soli e le cernierate e tessellate al muro da base. Se capita che devi verniciarti la cama a fare qualche cosa, abbassi e buh. Infatti effettivamente è così, non c'è problema, la stessa cosa faccio là, uguale. Positivo, positivo, no, molto molto carina. Molto carino la banca, non ti prende il posto, ci puoi mettere i piedi dentro quando uno vuole modulare, no, dai, è molto spazioso, molto bello. Sì, se la faccio uguale, anche l'altra parte la faccio uguale, devo mettere anche due mensole per appendere, mettere i portati, una mensola per i portati, devo fare. Infatti stavo guardando dove farla, adesso vediamo. Però ancora mi deve fare le separazioni delle varie. Le separazioni per le basi, per la base. Quello lì è il progetto. E venire da Vancouver tu. Non voglio più impegnare soldi però per le radio, basta così. Mi ho impegnato anche truppi. Ah sì sì, beh, sulla radio truppi non avevo ripreso l'impegno. La radio già ne ha impegnato anche troppo, ne è abbastanza, poi lo sai, volevo le polizioni accese per scaldare, cosa, no? Non conviene investirlo su un bel tavolo da lavoro, delle mensoline per appoggiarti, portatili, ecco questa roba qua, ma è necessario giusto che per occupare diciamo meno spazio, avere più spazio per i componenti, ecco. Infatti, un tavolo da per fare la buchi, quello ci vuole, non c'hai più la stampa tua così. Se ti capita, mi capita a volte aprire la radio, pulirla, farla, devo sempre sfoccare tutto. Perché ce ne ho, ce l'hai vista quante c'è, ed è un casino, invece se c'è un'altra base, la attacco da qui e la metto un'altra base, ma la sistemo, la pulisco. Capito? Poi anche perché ce n'è altre 2, 4, 6. L'hai visto in basso, sono lì ferme, proprio per non metterle qua su. Poi ci metto le armadie ancora. Sto aspettando l'altra base, tu. L'altra base, giusto per non fare l'armata branca leone. Sì, è vero, no, quando c'è la parte che rimangono anche più ordinati, più... Esce bello, dai, esce bello perché ti dà proprio l'occhio, ti parte lì, capito? Quando sono tutte sistemate, allineate bene, ordinato, cioè è una cosa molto, molto, molto bella. E infatti, appena aprivo il patto, la verità si dica, mi è piaciuto proprio a prima vista, perché vedere una stazione così bella ordinata, non è da tutti, ne ho visto, però no. Per me una che ne ho visto decente è la tua, perché decente, molto molto bene sistemata, non decente nel senso, invece le altre erano tutte vedevi questa radio, sì, questi vado su, tutti messi, tutti sistemati male, tutti, e non andava bene. La tua è molto molto composto bene, il gruppo è ordinato, le radio, no, deve essere così. E ti ho fatto la misura qua tu. Ma hai visto altre stazioni con questo tipo di radio o baracchini? No, radio di radio fisse diciamo, quei radioni grandi, dai. Ah, baracchini base? No, ma non vuoi fare un chissà. Ma poi tu ormai ci ha fatto l'occhio, già diverse volte vieni qua, quindi ormai ci ha fatto l'occhio al primo impatto. cucina così, no? Senza grosse cose, sono per barattini però. Per rimetterci, sai, Zeas 7000, un bel base, ma base non un Galaxy, una cosa così, un base di quelli che dico io, no? Anche un Galaxy, perché no? Molto bello Galaxy, una bellissima radio. Un base tipo quello, un Galaxy, ma a me piacerebbe trovare, e se mi metto lo trovo il Simba, Simba è una cosa allucinante, troppo bella la radio. Ma se mi metto a cercarla già la trovo. Con le panne più poi vedi in tutti i microfoni da tavolo lì, quelli per la 27 però. Quindi per la 27 con tutti i baracchini belli messi in ordine, non farò altro che girare la scrivania, commutare l'antenna e dire aspetta ti faccio sentire per dire questo baracchino. Tutti in pensione, tutti alimentati, tutti fatti bene. Ti giri solo la sedia, commuti, no? Hai visto che ci ho commutato io, tutte le radio che sono commutate. Commuti lì. E fai sentire un baracchino per dire, no? Anziché stare sempre a parlare con questo. E questo io, quando nel commuto la radio non cambia mai, perché i microfoni sono sempre uguali, invece lì potresti commutare e far sentire per dire, contone più 3, aspetta ti faccio sentire un più 4, un più 5, contone più 2, un SBE, ti faccio sentire, ecco, un M500. Ti faccio sentire questo microfono normale, vai, cosa ne pensi? Vedi un po' qui e là, sai, è diverso, no? Sì, è diverso perché puoi girare diversi baracchini, diversi microfoni, diverse cose, sia a parlare che da tavolo. Ebbene, in effetti ha ragione, si può girare di più, tante cose di più. Sì, ma infatti io quando lì c'ho lo spazio, perché il televisore va all'anno, se una base questa da 3 metri, non è mio, 3 metri per 90 larga, ma una volta c'ho questa lì che c'ho lo spazio, anche un metro, giusto per appoggiare della roba e farmi dei lavoretti quando capita, gli altri 2 metri fare una bella stazioncina della 27, capito, con delle radio belle, ne ho messe lì tutte alimentate, metto un alimentatore da 25 ampere, quindi li alimento e basta. Va bene, qua non li vedi lì, qua è tutto, già hai visto tutta la roba UHF, non ce n'è baracchino, l'unico baracchino che c'è è il SEAS, che è talmente bello che sembra UHF, che l'ho messo sopra l'amplificatore, ma per sollevarmi un pochino piano per metterci le altre in linea, capito? Quella parte lì, vedi, sarebbe ideale fare una cosa del genere. Tanto ci sono due pregi anche all'altra parte, quindi non ho bisogno di prolunga, non ho bisogno di niente. Metterei il computer e poi fare una bella linea di radio di queste, di baracchini, non radio, di baracchini a livello così amatoriale. Hai visto il cazzo che avete detto, fatelo vedere, quella microcornetta a PLC, quella era quella radio, mi sono dimenticato, è digitale, è tutta digitale, con 100 memorie e praticamente c'ha la cornetta uguale, precisamente che quella che usa nel carabinieri, uguale, quella pulsantiera sotto, quella l'ho trovata in fiera, quando facevo collezione appunto di baracchini di quel genere lì, e c'ha 50 watt con la radio. Immaginate tu che c'ha il cavo dietro, che è grosso come quello del Kenwood, in più c'ha l'attacco per attaccare il computer, puoi direttamente fare la connessione al computer. Come si ideale, bella è. Specialmente che avete fatto la vedere, hai visto quell'altra? Questa cestiera che c'è lì, ci sono tutte le, poi c'è quello marino, ce ne sono altre due civili grandi, c'è quello 1VU, gli altri sono tutti in funzione, ma quelli che non uso. poi una decina importante di ci sono. Tutti quelli che c'erano sopra quella base che abbiamo portato su, quelli li ho tutti tolti, messi da parte e poi li metto tutti sopra quell'altra base là che mi fa Giulio. Questo tipo è una cosa molto molto carina, è una cosa molto bella, viene perché voi sistemate bene, allineati e fanno la sua figura e ci metti doppio, è una cosa bella. Fanno la sua figura, ma c'è funzionati, la gondetta, non sono tutti nuovi, e uno che è già fatto 1978, io direi. Se trovi un graffio, quando vieni te lo regalo. È una cosa allucinante, nuovo. C'è il frontalino lucido come il giorno che l'hanno fatto. Le manopole sono tutte argentate, ma sono una cosa spettacolare. Proprio nuovo. Quello è datato 1978. Immaginateci. 1978, adesso c'è Luigi Sabato. Mi prendo quella faglietta KB23. Le vernici coperchi del suo colore originale, il frontalino è nuovo, e lo metto qua lo stesso assieme agli altri. E poi faccio tutta una esposizione di quelle radio. E di solito c'è un posto, questa camera è la mia, nella vostra mente di ghiero. Sì, infatti. No, ma è una cosa molto, molto, molto bella, molto, molto bella, perché ripeto, a destra, a sinistra, hai il radio, hai le radio, dall'altra i baracchini, e guarda che c'è una cosa molto molto mondiale, molto bella. Sì, ma infatti, hai visto che ho lasciato lo spazio sotto la scrivania, perché è fatta così, uguale a questa, uguale all'altra parte, lì ci va la cassettiera anche, quella cassettiera che c'è a fianco al computer, quella è per andare lì. Devo cambiarmi il colore, Giulio, farla il colore della base, anziché rovere la fa olivo e va sotto perché è fatta proprio a misura per lì. Quindi all'altra parte c'è la cassettiera, c'è tutto. E mi ha detto di aspettare perché te l'ho detto, sto terminando questo lavoro e li avevano bloccato e quindi è meglio che lo finiscano anche in cascia, se no è un casino. Appena finito, metto il telefono e mettiamo lavorazione subito l'altro piano. E usciti con tutta la casa roba di me dentro l'armadio ancora, e poi appoggiata lì in quell'altra base bassa che c'è, diciamo, altro po' di radio. Va bene, così ti prendi quella scrivania piccolina col cassetto del PC, quella per te va benissimo, è alta, finalmente lì puoi parlare seduto, tranquillo, prima che la sedia, e ci sta una, due, tre, quattro radio della cosa tua, ci sta il microfono, bene, la metà torre, tornina, sì. Va bene quella lì. Gappa, ia, adesso appena ti pago il lavoro, ne scendiamo, e sì, ce l'hai. E si conferma, è ben certo, bisogna scendermi la sì. Va bene, e adesso vediamo, quando mi chiama Giulio lo facciamo. Ok. E domani, ma sempre con te, io stai facendo, ma avete finito poi Giulio? No, dobbiamo mettere i marmi, capito? Dobbiamo mettere i marmi e poi sono finiti. E poi pitturato, abbiamo pitturato, si smonterà il pomeriggio e si inizierà a sollevare l'altra barra all'altra facciata, capito? Dove ti ho detto che si vedevano quelle due antenne. Sempre i viadici. Quali sono due radioamatori. Quali sono due radioamatori. Ok. Quindi siete addirittura d'arrivola. Poi avremo quella parte lì. Tre parti. parti ne abbiamo, due parti le abbiamo fatte, abbiamo quella una parte, due parti, tre, quattro parti. Sì, auguri a lui, auguri a lei, già ce n'è ancora, va bene. No, io devo verificare ancora, non ho più avuto bene per verificare se la canaletta va bene così o se devo ancora mettere qualche goccia di silicone, se devo mettere qualche goccia di silicone, se la mette silicone si mette l'ubiglio, però buono, non c'è problema. Poi ho visto l'altro giorno un amico e mi ha detto che ce l'ha vista da Scandellari, quella scala che stavo cercando io, e dove sale sino a 8 metri, praticamente sono 4 più 4, però sono retratti, capito? Fra due e piega, sino a 8 metri. Sono quelle, sono delle belle scale quelle. Cambio al cavo, diventi cavo grosso, concludo io. avrebbe detto che poca perdita è molto guadagno, ti aumenta molto di più la ricezione, hai meno QRM e soprattutto dura un'eternità. Questo è un cavo a doppia entrata, col centrale il rame grosso, non il filo del rame, direttamente il puntale in rame grosso, tiene 5 kW, fate un conto, è un cavo particolare che usiamo e che usano soprattutto molti radioamatori. Quando si deciderà di farlo, lo faremo, bisogna salire su, rifare i buchi, senz'altro, perché ci saranno da rifare i buchi, perché dicerà, cioè, i buchi sono fatti, adesso non so se togliendo quei dadi e poi andando a rimetterli si è riaprita o meno, non lo so, questo non sono sicuro. Di quale dadi stai parlando? Io ho l'antenna, è piazzata, allora ce l'ho nella stampa dove c'avevo la parabolica, no? Ce n'è presente la stampa della parabolica. E io il tubo gli ho piazzato con due stampe nel palo della parabolica, come parole, che l'ho attaccata lì. Allora tu hai usato quelle stampe palo palo, quelli doppi, ti aggancia una parte all'altra. No, il palo dell'antenna è quello è messo, c'ha tre innesti, però ne avevo solo due e due ne ho messo. E infatti l'uno dentro l'altro è 2 metri, non è che lo sono levato a 4 metri il tubo, no? E uno è innestato dentro l'altro, capito? Posso sollevare a 4 metri. Quindi va bene, non capisco perché l'antenna come l'ho attaccata. L'antenna mia ha due staffe a U, capito? Non è annestata dentro il tubo, c'ha le due staffe a U, capito? C'ha i bulloncini e attacca i bulloncini, capito? Ho capito, due cavate c'ha. E qual è il problema? Che pensi che non mollino i bulloncini, si tagliano, qual è il problema? Si tagliano e ci mettono le due cavate nuove, ma quando la giudici? C'è anche un acciaio oscillabile, io di tutte le misure, perché noi lo usiamo come collare lo stesso, quindi lo usiamo come collare per sellare i tubi, quindi mangi tutte le misure, anche da 3 quarti, da mezzo, da un pollice, da 2, ti da 6 pollici, naggio di sigillati, di sigillati, non c'è problema. Oppure non acciaio oscillabile 2, con i bulloni acciaio oscillabile, quindi quelli si tolgono, si buttano via. Si mettono i collari nuovi in acciaio oscillabile, si tira sull'antenna e si fa l'angolo fatto bene. Infatti. Però l'antenna, il palo che viene, che sovrasta l'antenna, è attaccato al palo dove c'era l'antenna parabolica, capito? La con due staffe a U. C'è con due staffe a U, capito? Ma è staffato un palo all'altro. Vabbè. Quello si elimina tu, si elimina, si fa una cosa fatta bene. Anziché farlo così si mette il pelo dentro, te lo do io, con i bulloni passanti. Si sta a quello lì e si tira sull'altro da 2. Ma è leggermente storta con la stampa, capito? La stampa che si è buttata nel telefono, però rimane semicurva. Ecco perché tu vedi l'antenna che è un po' corcata, e per quel motivo lì. Le mettiamo, segniamo la staffa via su e tiro quella piatto con i tasselli, tassellata, lo esce direttamente il tubo dritto da innestare, capito? Dove c'è già la staffa zancata, con la zanca già attaccata, entri il palo e tiri su. Infatti, è così che vuole, non vuole colcata l'antenna perché c'ha molta dispersione così. Capito, quando ha piegato l'antenna è rimane nel tipo direttiva, capito? Io infatti, ma già la dritta è muisce. Quella era l'affare quest'estate, vedi? Quando ci siamo conosciuti, quella era l'affare. Noi ci siamo messi a andare e non siamo messi a andare a cosa nulla. Comunque, quella era l'affare. Quando vuoi, non c'è problema. Si viene, si fa. Ma giusto per recuperare qualche metro lì, mi capito? Per recuperare qualche metro e superare quella collinetta. ancora più forte, erano 10 volte antichi. E sto matto ci aveva a 6-8 metri mi pare l'antenna, che era una cosa allucinante, da qua al mondo arrivava. Sono zone micidiali quelle, anche quando già sei così in alto, poi aperto, cioè tutto libero, se l'antenna è piattata bene rende che una meraviglia. È quello che è vero. Se l'antenna è piazzata alla certa altezza, diciamo piazzata dritta alla certa altezza, quella rende parecchio, perché la zona lì è tutto aperto, non hai ostacoli, né niente. Io c'ho solo quel palazzo, che l'hai visto, quello grigio, e basta, io basta che sono liberi un altro paio di metri e non c'ho un ostacolo, poi sono tutto libero. Si è accorto, come faccio a crearti, se l'aperto io l'antenna 3% che non mi cade, su questo non ci piove, perché io l'aperto bene, soprattutto non risparmio nei tasselli, non risparmio nelle staffe, è tutto lì il problema, capito? Se risparmi nelle staffe sei fregato, o nel tubo, o poi mi dà un tubo che tiene un'antenna TV, non me lo piace tutto. Ci vogliono tubi per antenne da 7-8 metri, quindi che abbiano il suo peso, che abbiano la sua forza. Io ho un tubo che ho usato via Pasqua di 3 anni senza tiranti, e guarda che ne ha fatto un vettore, ma ne ha fatto parecchio, mai un problema. E quando l'ho smontato dopo 3 anni l'ho piazzato qua e ti dico che come il giorno l'avevo comprato, che l'avevo messo la vasellina nei bulloni, tutto a posto. La stessa cosa l'antenna, ho tolto l'organizzante, c'erano fascette in acciaio inossidabile, però non visi fascette di gatto, fascette in acciaio, come il giorno le ho messe, smontata anche quella, pulita e ripiazzata qua l'antenna. Mi ho giocato tutta la giura a 40 metri da sedia, guarda, senza nessuno, capito? Le staffe ce l'hanno già qua, perché le avevo già messe io, e ne ho ancora rifatte, ce ne sono 3-4, ce n'è la metà delle antenne, perché ho deciso di non metterle tutte, perché non me ne faccio niente. E quindi anche qua ho fatto tutte le lavorate, tutti i cavi nuovi, discese nuove, attacchi nuovi, tutto nuovo, e 3% dell'antenna non mi gacci, era 23 anni, era 90, vai nuovi. Non c'è problema, io uso tubi buoni, quello che ho io il tubo l'ho pagato 60 euro, il tubo me l'ha portato Fusaro da fuori, me l'ha ordinato, e sono i tubi che usa lui per mettere nei tralicci, per attaccare nei tralicci per i ripetitori, capite? È un signor tubo. Eh sì, pure quando sono in acciaio io che sono pure come si dice, quell'altro materiale zingato, già su bordo. Il mio è zingato. Il mio parte da 2 pollici. Da 2 pollici a 1 pollice. Capito? Anzi, a 1,5 pollici. Entra giusto nella mantova. Nel mio connettore della mantova. I dadi io li ho cambiati, li ho messi in acciaio. Fascette tutte in acciaio. E io ne ho di quel materiale in officina. Tutti i bulloni in acciaio, tutto fatto bene, perché da qua non volevo spostare più un'antenna. Ma ho deciso la prossima estate di innestarle, di tirarle su, perché gli ho lasciato un elemento dentro. Infatti è a 4 metri. No, è a 3 metri. A 3 metri e 50, le ho diviso il tubo. E ce ne mancano altre 3 metri e 50. Figurati. Lo voglio portare tutto su e aggiungo 3 tirantini proprio così, giusto per la sicurezza dell'antenna. La voglio portare più in alto, sia quella che quella delle 2 delle 1, perché le ho messe molto basse, perché non avevo nessuna intenzione di lavorare così molto, soprattutto qua, ma visto che siamo tornati alla normalità, anche se non c'è bisogno, ti ripeto, l'altezza è tanta qua e quindi l'antenna va bene anche così, però ho deciso di farlo. questa primavera, non aspetta neanche l'estate, verso marzo, così me la salgo su la prima domenica, fatta la giornata, mi tiro su tutte le antenne e magari ne accetto qualche un'altra e vediamo. Infatti conviene verso marzo, la primavera, quando c'è qualche giornata bella, si sale, si parla volo. E beh, in effetti è così. No, adesso l'inverno è un casino. Questi lavori bisogna farli in primavera, estate. Capito che non c'è il pericolo che piova, il crollo. E vogliono fatti bene, soprattutto vogliono fatti bene, perché se vuole una buona radio, una buona recensione, vuole tutto, deve essere piazzata bene l'antenna, se no è inutile avere apparati buoni e antenne piazzate male, non vanno bene, soprattutto l'antenna, soprattutto quella. dovuto ricomprare tutto nuovo, mi è costato un capitale. Perciò, siccome quei cani sono buoni, nuovi, e già li hai visti, sono sui mansarda piegati, le puoi usufruire tranquillamente, a te una trentina di metri ti bastano. E avanti, quanto hai comprato tu di quel cavo fine? Quando hai piazzato l'antenna, 20 metri? Sì, più o meno una ventina di metri. 20 litri avevo comprato. E io c'ho quello grosso che sono due carte da 25, mi pare, da 30, ma forse 30 ne avevo, perché c'erano 5 metri in più, ne avevo preso per l'ingresso. E quindi mettendo quelli qua bisognava aggiungerli, io cavi non ne aggiungo in modo più assoluto, allora li ho comprati nuovi, capito? Perciò quelli lì si può usufruire. Adesso domani lo dico a Mauro, se vuole quello fine o quello grosso, se vuole quello fine o quello grosso, vediamo un po', comunque lo dirò a lui. Se vuole quello fine è già pronto, mi pare c'è anche i PL intestati, non ricordo, o se gli ho detto ultimo, non so. Se vuole quello grosso è la stessa cosa, ma non credo che metta quello grosso con quell'antenna lì. Spreco, bisogna fare. Quello grosso va bene a te, se è l'antenna grande. Infatti, positivo. C'è a parroggio. Senti, l'avevo fatto. E le 10:20 sono. Ehi, mi sa che ci andiamo tutti a bocca. Io Giulia cominciato a trovare un poco dell'aria. Ho lasciato solo questa accesa, quindi quando vuoi per me non c'è problema. Abbasso la luce qua, spengo tutto. Che domani mi voterò sì. Perciò fermo la goccia. Salutiamoci e ci andiamo a nanna. Ciao Antonio, a domani. Ci sentiamo e ci vediamo. Comunque io ti faccio che tu più o meno verso che ora pensi di uscire dal lavoro. Poi così a Mauro glielo dico e mi preparo già la roba per scendere da lui. Guarda, io esco verso le 5, così che 5:10 potrei essere a casa tua, volendo. Se tu poi mi dici che scendi giù a casa, allora è diverso, capito? Ti aspetto io a casa. Micidiale a gas che alla fine del mondo costa un pacco di soldi. Quindi non abbiamo problemi, si può salvare direttamente fuori e via. Vabbè, mi porto l'orometro e batto il cavo io. Ciao. Ci vediamo a casa tua domani alle 5:10 sono da te. Ciao Antonio, ciao a tutti gli altri. A frappi, ciao ciao. Ricordati, ma il test è di sempre. Io ce l'ho in macchina. Io ce l'ho in macchina, intanto vengo con la furgonetta a prenderti. Capito? Così carico tutto dentro. Io ce l'ho in macchina il test. Quello che mi ha dato tu ce l'ho in macchina. Va bene, allora ricordati, così appunto se c'è qualcosa da verificare. Va bene, ci aggiorniamo domani pomeriggio. Ciao Pompoli, buonanotte, ciao Claudio, buonanotte a te, Guerrera Familiare e tutta domani. Ciao ciao. Ciao, buonanotte a tutti e due. Ciao pure domani, Io mi ricordo se poi domani te lo non a parlare. Alla prossima, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.